Continente ai, sanai del comp al dei mexoram, at cuno tapo la lestoltam, el malam nel cacciatoram, Petri wahdam konna maadu Anela boade yentlim kien Lata promman al misiram Ashrabem wa el jirien Tovra maret, mal inglese per quartier, el de trabe, el malezia, otar set man artaler, din miau con felacia. Iar joai dobroflem kien O ma soldat tal mia verba Te zeu ecce la